per la trasmissione. Grazie. Molto carine. Grazie. Però adesso parliamo anche in coro col generale. Allora, come le gemelline siamesi. Comincia tu, se no qua non finiamo più. Ma sentirlo Ellen, che cosa avevamo detto? Io ero Ellen, io Alice. Ok, Alice, dove andiamo? Puoi rifare oggi la performance? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ma mi dica la verità, mi guardi negli occhi da uomo a uomo. Che c'è? Lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no? Come no? Sono notaio. Abusivo. Ma che abusivo? Lei è notaio. Sono notaio! Con la laurea? Con la laurea? Laurea! Adesso si dice laurea? No, sei sempre detto così. Appunto dico, sei sempre detto così. Sei sempre detto così, no laurea, laurea. E c'ha l'ufficio, no? Ho l'ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno. Con l'ufficio? Di padre, in figlio, siamo arrivati a me. Però clienti. Si informi, si informi. Però clienti. Affollatissimo, moltissimi clienti. Si informi un po', chi è il notaio Cocozza? Cocozza? Cocozza. Ma io ho conosciuto suo figlio. Mio figlio? Sì, Cocozziello. No, non dica io. Non è suo figlio? Non è mio figlio perché non ne ho figlio. Ci avrei giurato, sì. Invece tagliamo qui. Tagliamo qui. Allora, per qualcuno, oltre a Cocuzza si chiameranno in tanti altri modi, naturalmente per qualcuno sembra addirittura una figura d'altri tempi, il notabile amico di tutti, pronto a dispensare saggi consigli per la gestione delle piccole e grandi questioni familiari. Per altri si identifica solo con quel professionista incontrato il giorno della firma del rogito, di fronte al quale si è dovuto poi staccare un assegno salato. Per altri invece la figura del notaio è quella che ha aiutato a gestire un momento particolarmente delicato della propria vita, una successione, un passaggio ereditario. Molto spesso però ancora la figura del notaio è considerata inavvicinabile, disponibile solo in caso di necessità e dietro pagamento di parcelle stellari. C'è una novità, ve la racconteremo stamattina. Voi intanto raccontateci come rappresentereste il vostro notaio, che rapporto avete o avete avuto con lui. Noi ne parliamo tra poco. E quindi avete prestato orecchio a quello che ha detto Deborah? 800 24 00 24, iniziate a chiamare o a scrivere. Ci scrive già Medea che c'è, dicendoci che scrivendoci di un'esperienza un po' particolare con un notaio che si è offeso perché ha chiesto il preventivo per un atto. Nella seconda parte della trasmissione noi parleremo invece di orecchie, tuffi, bagni, voli, salite in montagna. A volte basta poco per mandare in crisi le nostre orecchie, se le orecchie si lamentano sono guai, quindi giochiamo d'anticipo. Se volete tutti i consigli, sentire le raccomandazioni del nostro esperto, iniziate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Testamento, eh? Ah, testamento. Bene, allora, chi sono i beneficiari? Beh, come sai, io non ho parenti in vita. E naturalmente voglio che i miei adorati gatti siano sempre trattati bene. E certamente nessuno lo può far meglio del mio fedele maggiordomo Edgar. Ma ti dai, che vuoi dire che vuoi lasciare tutto il tuo cospicuo patrimonio a Edgar? No, a Edgar, ai miei gatti. Ai tuoi gatti? Ai gatti? Non è giusto. Capirai, ogni gatto vivrà circa 12 anni, non posso aspettare, ogni gatto ha 9 vite. Beh, sarà anche un professionista qualche volta poco conosciuto, a volte contestato, ma che si è ricavato un grande spazio nella cinematografia, così come anche nell'animazione, come avete sentito, perché questo era un pezzo tratto dagli Aristogatti. Allora, da molti anni la relazione col notaio non è più considerata come appunto una relazione difficile. Dopo aver avviato una collaborazione strettissima con le associazioni dei consumatori, settimana scorsa è stata presentata l'ennesima iniziativa in contemporanea in 25 città italiane. Si tratta della Carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato con ben 10 associazioni dei consumatori. Ve le cito tutte perché così, se volete andare sul sito di una di queste, queste trovate anche tutto. Esattamente questa guida. Sono Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanza Attiva, Conf Consumatori, Feder Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori. Una guida che dovrà servire a far conoscere le garanzie offerte dal notaio in fase di redazione dei suoi atti e per informare in maniera trasparente i cittadini sui diritti che è possibile esercitare a propria tutela. Per raccontarci tutto, ma anche per rispondere alle vostre domande e commentare i casi di cui vi siete trovati protagonisti, questa mattina è venuto a trovarci in studio il notaio Domenico Cambareri, che salutiamo, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione, lo ha ricordato anche Nicoletta poco fa. Da venerdì scorso questa guida la troviamo in ogni studio notarile d'Italia e vorremmo sapere da voi non tanto qual è la parcella che avete versato per il rogito, ma magari di quella volta in cui una consulenza preventiva da un notaio è stata fondamentale per gestire senza traumi una situazione personale o professionale delicata o complicata, oppure diteci se dovete affrontare una questione e non avete ancora deciso se interpellare o meno questo professionista. Chiediamo qualche esempio ai nostri ascoltatori. Nicoletta, che dici? Sei d'accordo? Mi sembra un'ottima idea. Notaio Cambareri, abbiamo invitato i nostri ascoltatori a raccontarci le loro questioni personali perché credo che su di voi ci siano ancora molti pregiudizi, la casta, gli intoccabili, notabili, categoria protetta, ve ne dicono di tutti i colori. Allora, questa guida serve anche un po' ad abbattere luoghi comuni e critiche, glielo domando questo. Ma forse anche serve a questo, in realtà serve ad altro, cioè serve ai cittadini consumatori. Questo non è un prodotto dei notai, è un prodotto dei consumatori e dei notai, e quindi la dice lunga sullo scopo, che è quello di aiutare i cittadini a essere preparati a ricevere i consigli del notaio cercando di sfruttarli al meglio. Certo. Dopodiché, se qualche luogo comune come quello del notaio Cocozzo o Cocoziello verrà meno, saremo contenti, perché in realtà oggi la percentuale dei figli di notai non supera il 18%. La percentuale di figli dei notai non supera non il 18%. Non solo figli, ma parenti comunque di notai. Certo, poi bisognerebbe anche valutare le percentuali di figli di altri professionisti, magari sono più alte. Allora, c'è già una domanda che poi magari affronteremo questo argomento nella seconda parte della trasmissione. Il tema è il provvedimento sulla concorrenza. Lei lo sa, si è tentato di eliminare il ruolo del notaio, la dico così brutalmente, per tutte quelle transazioni immobiliari di valore inferiore ai 100.000 euro. Credo che si sia tutto bloccato, no notaio? Al momento ancora è di nuovo in discussione? Ma diciamo che in discussione il provvedimento sta seguendo l'iter parlamentare. Potrebbe però essere stralciata questa parte, ho letto. Se ne sta discutendo, vedremo i risultati dell'attività parlamentare. Esattamente, un bel tema pronto per settembre. Nicoletta, quando torniamo dalle vacanze ce ne abbiamo già di cui discutere. Tema ricco, mi ci ficco. Infatti. Allora, questa carta di cui abbiamo parlato poco fa è a disposizione in tutti gli studi notarili, punta da un lato, come dicevamo, a spiegare quelle che sono le competenze reali del notaio, spesso vissuto appunto proprio come un professionista che si limita ad apporre una firma a caro prezzo per dare valore legale agli atti. Dall'altra parte, questa guida illustra quelli che sono i diritti dei cittadini. Allora, Cambareri, notaio Cambareri, è vero che un notaio non può rifiutare di redigere un atto se non nei casi evidentemente espressamente previsti dalla legge, quindi se un atto è illegittimo è ovvio che lo vede e non ne mette il suo sigillo? È esattamente così, la guida lo chiarisce. Se l'atto è evidentemente illegittimo, come diceva lei, è contrario a norme che non possono essere violate, il notaio deve rifiutare di ricevere questo atto, altrimenti la prestazione del notaio è irrinunciabile, nel senso che chiunque può ricorrere al notaio e il notaio è obbligato a fornire la sua prestazione a chiunque, indipendentemente certo. dalle condizioni, per così dire, del soggetto richiedente. Condizioni di carattere economico, cioè sei in grado di pagare una parcella. Esattamente, nel senso che non ci sono prestazioni di serie A, di serie B o di serie C, per intenderci. La parcella del notaio deve, come è giusto, come quella di qualunque altro professionista o altro lavoratore, essere pagata, ma è calibrata in relazione alla prestazione e comunque sono costruite in modo tale che chiunque possa accedervi. una remunerazione calibrata sulla base della qualità della prestazione. Credo che sia così anche per i medici, Nicoletta, per credo i professionisti, sì. No? Bisogna vedere un po' intramedia, insomma, penso ci siano delle differenze che magari potremmo affrontare proprio in una trasmissione. Interessante, infatti. Allora, la questione del vostro costo. Andiamo subito a commentare il primo SMS che ci ha mandato Amedeo. Siete tenuti o no a fornire un preventivo? E perché si pensa che voi non possiate farlo, mentre per tanti altri professionisti in qualunque campo ognuno di noi può andare a chiedere quanto potrà essere appunto il costo di una prestazione? Invece anche per voi è la stessa cosa. Perché si pensa di no? Questa risposta è difficilissima da dare, almeno da parte mia. Io risponderei con il classico luogo comune. Anche questo è un luogo comune. Qualche volta accade, e probabilmente qualche ascoltatore ci darà ragione in questo senso, ma non è la norma, non è la regola. E ormai c'è una disposizione normativa da qualche anno che impone a qualunque professionista di fornire almeno un preventivo di massima sempre, come è giusto che sia. Altro discorso è un preventivo puntuale che richiede evidentemente un esame istruttorio minimo, medio, massimo, certo, della pratica. Quindi tanto più dettagliati saremo noi nella necessità che vi rappresentiamo, evidentemente tanto più dettagliati sarete in grado di essere voi sul preventivo che ci rilasciate. Esattamente così. Posso aggiungere che il notariato a questo si è adeguato da tempo, perché la disposizione normativa, se non ricordo male, è del 2012, che obbliga tutti i professionisti, ma il nostro codice deontologico prevede da numerosi anni, credo più di 10 o 15, l'obbligo di fornire dei preventivi anche scritti se richiesti, che non è una cosa da poco. E infatti. Quindi allora, il consiglio da dare ai nostri ascoltatori è di richiederlo sempre. Lei lo richiederebbe anche scritto, notaio? Perché no? Bisogna stare attenti a distinguere quello che la legge qualifica come preventivo di massima, che è bene dare, perché chiunque deve in qualche misura orientarsi per sapere se pagherà 100 o se pagherà 1000, e questo sta nella logica della normalissima contrattazione. Quello che noi suggeriamo è di avere un colloquio preventivo col notaio, esatto, perché questa è una componente fondamentale della nostra funzione. Esporre la situazione, perché anche il caso più semplice, come l'acquisto di una casa in una famiglia normale con marito, moglie e figli, e a volte comporta una scelta sull'intestazione dell'immobile fra entrambi i coniugi. Molti aspetti ai quali proprio non si pensa. Non si pensa o ci si pensa alla fine. E la pianificazione fiscale non è soltanto cosa delle ricche famiglie, la pianificazione fiscale è anche della famiglia normale che compra una casa, una seconda casa al mare, molto in montagna. Spesso per queste famiglie è molto più importante, perché magari quella può essere l'unica ricchezza che questa famiglia ha, per cui è bene che si disciplinino appunto i rapporti, le intestazioni molto chiaramente. Soprattutto in questi ultimi anni in cui l'immobile è particolarmente colpito, diciamo, dalla tassazione, argomento di fortissima attualità, e quindi a volte un risparmio di 1000, 2000, 3000 euro per una famiglia può essere un risparmio considerevole. Questo fa parte della pianificazione che alla quale il notaio può indubbiamente contribuire. E intanto andiamo subito allora a sentire la casistica dei nostri ascoltatori all'800240024. È pronta? Doriana, che ci chiama dalla provincia di Viterbo, benvenuta. Grazie. Sì. Vorrei porre questa domanda al vostro esperto. A me è accaduto di avere voluto vendere un immobile a Roma, e questo immobile appartiene ai primi degli anni 30 addirittura, e sconcertata ho appreso che per anni avevo pagato le tasse, l'IMU su questo immobile, ma non risultava trascritto al catasto. Per fortuna ci sta un atto notarile che fa fede, tra l'altro c'era anche un mutuo con doppia ipoteca che avevo fatto per l'acquisto di questo immobile. Abbiamo dovuto pagare di nostra tasca, chiaramente una persona, per poter fare tutta la pratica e far acquisire al catasto i dati di questo immobile. La stessa cosa è accaduta a una mia amica sempre a Roma. Il notaio ovviamente l'abbiamo cercato immediatamente, ma nel frattempo era defunto, quindi abbiamo dovuto fare da noi. Ecco, è possibile quindi che accada questo? E perché i notai... Ma che tipo di responsabilità attribuiva in questo caso al notaio, Doriana? Mi scusi, perché lei aveva questo immobile che non risultava. Io so che un notaio, quando io acquisto un immobile, sarà cura sua, esatto, di far trascrivere i dati al catasto. Lei in che periodo lo aveva? Certo, in che periodo lo ha comprato, Doriana, questo immobile? Esattamente nel 1900. 1982. Perfetto. E questo ecco è accaduto poco più di un anno fa. L'immobile non è ancora stato venduto, e mentre l'altro di questa mia amica è stato venduto, ma facendo tutta la pratica anche noi, che è una pratica anche onerosa a distanza poi di tutti questi, di questo tempo. E io ho appreso che praticamente per 30 anni avrei potuto ipoteticamente non pagarci nessuna tassa, perché non risultava che io e mio marito eravamo proprietari dell'immobile. Grazie molto Doriana, questo è il motivo per cui intanto è importante questa riforma del catasto, pure della quale si sta tanto discutendo, notaio Cambareri, perché appunto molti immobili risultano nella medesima situazione, però poi non si capisce come mai lo Stato riesca lo stesso a effettuare tutto il prelievo fiscale su questi immobili che al catasto non risultano. Vabbè, questo è un altro mistero. Questa magia. Transazione c'è stata nel 1982, quali responsabilità ha questo notaio che si è incaricato di gestire questa transazione immobiliare e non ha appurato che addirittura al catasto questi immobili non risultavano, notaio? Allora, proverei a dare una risposta che possa essere di utilità per tutti, generale, anche perché è un caso molto frequente. Oltretutto. E dopodiché, senza evadere naturalmente la domanda relativa ad un'eventuale responsabilità del notaio, per la quale comunque Doriana potrà senz'altro rivolgersi eventualmente al consiglio notarile competente. Il punto è che il legislatore negli ultimi anni è particolarmente attento agli immobili, non soltanto per colpirli fiscalmente, ma anche per individuarli, e d'altronde individuarli serve proprio per poterli colpire fiscalmente, come d'altronde è giusto che sia, al di là di qualunque riflessione generale. Il punto è che fino al 2010 la situazione di individuazione catastale degli immobili era molto difficoltosa. Il nostro catasto è nato fondamentalmente a fine degli anni 30 e la rappresentazione degli immobili era più che deficitaria, era approssimativa. Le cantine e i solai, ad esempio, non venivano rappresentati, oggi hanno un valore molto importante. I solai addirittura Determinazione della rendita, molto spesso i solai addirittura vengono recuperati in modo abitativo, e comunque la rappresentazione era approssimativa, la rendita era approssimativa, molto spesso addirittura non c'era un'individuazione puntuale, come probabilmente il caso di Doriana, ma il caso di Doriana è frequentissimo. Lì la responsabilità del notaio non c'entra semplicemente perché, indipendentemente dai rogiti che hanno comunque degli strumenti per individuare gli immobili, il catasto era particolarmente arretrato, diciamo così. E non serviva comunque per finalizzare quella compravendita con l'atto, con il rogito? Avrebbe dovuto servire a questo, ma era inadeguato a farlo. Esistevano e tuttora esistono migliaia di immobili o i cosiddetti immobili fantasma non individuati, il che comunque non giustifica nessuno da non pagare le imposte, al di là delle battute che possa fare Doriana, o comunque malamente rappresentati. Ripeto, nel 2010 il legislatore ha dato una grande svolta, perché obbliga oggi il notaio, con precise sue responsabilità, a verificare che questa individuazione sia perfetta. Qualora non fosse perfetta, il notaio deve innescare i meccanismi che consentano di raggiungere, certo, per così dire, la perfezione. Purtroppo questo ha come ricaduta per il povero cittadino contribuente che, se si trova ad ereditare una situazione di irregolarità, la debba sanare lui, certo, anche se la causa magari era imputabile a un precedente ma proprietario. Se Doriana venisse oggi da lei perché è intenzionata a comprare un immobile di un certo tipo, lei in questo momento sarebbe chiamato ad andare a verificare che questo immobile è regolarmente iscritto al catasto italiano, e se lo trovassi in una condizione di irregolarità potrebbe bloccare l'atto? Esattamente, non potrei, cioè quello dovrei che era fatto nell'82 non succedeva, oggi invece lei dovrebbe bloccarlo. Esattamente, per questo non voleva essere una giustificazione del notaio che ha fatto l'atto dell'82, perché bisognerebbe vedere la situazione concreta di dettaglio, però oggi questo non può accadere, perché il notario è obbligato, è uno dei casi in cui deve rifiutarsi di fare l'atto laddove l'immobile non sia correttamente identificato. Fino a prima del 2010 questo non accadeva, per cui le responsabilità possono essere variegate. Nella maggior parte dei casi dipendevano, certo, da una arretratezza del catasto. A proposito della parcella che un cittadino vi deve, quando banalmente, non è un lavoro banale naturalmente, però diciamo l'atto più frequente che voi vi trovate a suggellare è il rogito, quindi proprio la transazione immobiliare. Allora c'è Mario da Novara che ci scrive: perché l'onorario in percentuale l'onorario è in percentuale sul valore degli immobili, il lavoro è uguale per tutti gli immobili? Forse qui vale la pena chiarire, notaio, ma magari Mario lo sai, ha riscontrato una differenza di parcella a seconda del valore dell'immobile, ma in realtà ricordiamo che tutto quell'assegno che noi vi versiamo quando diventiamo proprietari di una casa e questo atto si ufficializza davanti a voi, non è che tutto quello che paghiamo appunto con l'assegno è parcella e onorario del notaio. Ricordiamo anche tutte le imposte che su questa transazione voi versate per conto nostro allo Stato. Sì. Perché questo è proprio forse l'equivoco di fondo. Per dare il senso dell'incidenza dei vari costi che sono contenuti nella parcella del notaio, che il notaio incassa e che non mette evidentemente tutti nelle sue tasche, possiamo dire che, approssimando, se compro un immobile non potendo godere dell'agevolazione prima casa, un impatto del 9% del valore di imposte di registro, che vengono percepiti dal notaio, versati dal notaio, incassati dal notaio, ma non finiscono nelle sue tasche. Se voglio immaginare una percentuale media degli onorari del notaio, posso parlare di una cifra che è inferiore all'1% e non supera l'1,5% del valore. E se ho la fortuna di poter godere delle agevolazioni prima casa, questo 9% scende al 2% o al 4%. Come vedete, la ripartizione della, certo, della la composizione sta in questi termini. Perché il valore è, intanto, non tutti gli immobili sono uguali. Non è detto che una pratica complessa di basso valore non sia paragonabile ad una pratica di un immobile di alto valore, magari meno complessa. Però è un altro l'aspetto da tenere in considerazione rispetto alla parcella del notaio, ed è la responsabilità a cui lei all'inizio della trasmissione alludeva. E cioè, il notaio è responsabile del valore dell'immobile che l'acquirente effettua. Se ci sono delle conseguenze negative, il notaio non risponde allo stesso modo per tutti. Risponde per il pieno valore dell'immobile acquistato, e quindi se l'immobile vale 100.000, la responsabilità del notaio patrimoniale per 100.000, se vale 1.000.000, per 1.000.000. Quindi speriamo di aver chiarito le idee a Mario da Novara. Intanto ricordo ancora il numero verde, che è sempre 800 tu sei ancora 24, un po' in vacanza 24. Mentalmente, e io ti vedo che c'è questa faccina rilassata. Mamma mia, come sono stata bene 3 giorni. Sai che avevamo fatto una puntata quando, con il dottor Gargiulo, quali sono, qual è il numero ideale di giorni di vacanza per staccare 8. A me ti devo dire che già 3 fanno, altro che. Poi vi racconterò. Allora, intanto che abbiamo ricordato il numero verde, dobbiamo però anche ricordare, sono molto contenta di raccontare questa giornata di borsa che oggi è molto positiva, la settimana parte bene, non solo perché è tornata Nicoletta, perché c'è il notaio Cambareri, ma anche perché gli operatori stamattina acquistano, sono riaperte le banche greche, insomma un po' di buone notizie che adesso vi racconto. Andiamo. Cuore e denari. Per fare certe cose ci vuole orecchio. Bisogna vedere. Eh sì, ci vuole orecchio anche e soprattutto per viversi in tutta pace e tranquillità l'estate, perché basta poco, eccolo che arriva di notte, soprattutto il mal d'orecchio che mette in crisi le orecchie nostre, soprattutto quelle dei nostri bambini. Ne parleremo tra poco con il dottor Burdo, che è tornato a trovarci. 800 24 00 24, se le orecchie vi si tappano, se avvertite un dolore lancinante all'improvviso, se a darvi fastidio è un eczema proprio nel condotto del Deborah, già mi guarda e dice proprio eccolo lì. Proprio lì, che quando sai, se entra l'acqua e avverti quel dolore intenso e poi il prurito. 800 24 00 24. Ma noi siamo venuti da lei, che è un notaio saggia ed oculata scelta. Io peraltro sono noto per la mia chiosa all'istituzione di diritto civile, riscossione e segretezza. Sono apparso anche in TV nella rubrica Sentieri della Legge. Ecco dove l'ho vista lui, rappondente, tipo telefilm, Cogecco, lui è il tenente Cogecco, uguale proprio, prende il colonnello, tenente, no, perché il mio amico segue tutte le puntate di Cogecco, prende le calecche e se lo mastica, lui non parla ma vede tutto, è intelligente, I sentieri della legge. Allora, ci siamo ritrovati in diretta, parliamo di questa iniziativa lanciata la settimana scorsa dai notai italiani, che peraltro per primi, fra le professioni dell'area giuridico-economica, hanno lanciato la carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio. Noi ce l'abbiamo qua, il notaio Cambareri ce l'ha portata, poi magari facciamo una veloce fotografia. Esatto. Fantastico. Tra l'altro è molto sintetica, per cui davvero anche in spiaggia in una mezz'oretta ve la leggete, ed è molto gradisci di non portare meglio il romanzo. Adesso voglio dire, va bene tutto, ma dai, ma sono quattro pagine, ma mi sembra eccessivo. No, allora, se qualcuno deve comprare casa adesso a settembre, invece magari a tante cose non ha pensato, io stamattina voglio, adesso sai che ti dico? Che invece ne regaliamo qualcuna, vediamo se c'è qualcuno che la vuole. Esatto, sì. Se la volete 800 24 00 24, a parte che dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato e da tutte le associazioni dei consumatori che abbiamo citato la potete scaricare velocemente, però questa è carina, c'è anche proprio questa penna proprio da calamaio che viene raffigurata in copertina, quindi un po' richiama alla vecchia immagine, mi passi il termine, notaio Cambarelli, appunto, che vi si assegna, che vi si associa, però insomma con una veste moderna della guida. Stavo pensando, in base al film che abbiamo sentito, a questo brano dove c'erano come protagonisti Lino Banfi e Jerry Calà, ma davvero, notaio, se dovessimo vincere al Totocalcio, al Superenalotto, sarebbe meglio se prima di depositare la fortunata matrice in banca venissimo da voi a fare una chiacchierata? Oppure non è il caso, insomma è meglio non disturbarvi per questa... No, no, i notai possono essere disturbati, anzi devono essere disturbati, perché sono ciò lì che la legge... apposta. Sono lì apposta. Cioè, se no... Noi, lo vorrei ricordare, esercitiamo comunque una funzione pubblica su delega dello Stato e quindi siamo a servizio del cittadino, ma anche a servizio dello Stato. Vorrei ricordare che tutte le volte che... per il tramite nostro si conclude un atto notarile, noi non facciamo solo gli interessi di tutte le parti, ma contemporaneamente anche, e di questo a volte non sono contenti le nostre parti e i contribuenti, gli interessi dello Stato, perché percepiamo per conto del fisco le imposte. Io direi che è opportuno che si vada da un notaio o comunque anche da un altro qualificato professionista per organizzare e verificare che la procedura si svolga correttamente, quindi non necessariamente un notaio o un avvocato sono sicuramente i professionisti indicati. Allora, voglio leggervi il messaggio di Luisella. L'hai letto? No, perché avevo gli altri davanti a me. Il notaio vostro ospite non ha potuto dirlo, ma io, che ho collaborato nello studio notarile per 45 anni, posso assicurare che il lavoro svolto dallo studio notarile prima della stipulazione dell'atto è notevole, che nessun altro professionista può fare in quanto privo di preparazione. Segnalatelo per cortesia agli ascoltatori. Non ha lavorato da lei, Luisella? Luisella no. Però è vero, allora, insomma, per andare con tutta la documentazione a posto nella giornata del rogito, effettivamente, notaio, voi quanto ci dovete lavorare per fare in modo che i protagonisti della transazione immobiliare siano tranquillissimi, sia quello che vende che quello che compra? Ma comunemente ci sono delle settimane di lavoro, cioè nell'immaginario collettivo si va dal notaio, si sta da lui un'oretta circa, un'ora e mezza, si stipula l'atto, si paga una parcella salata e finisce lì. In realtà il notaio deve fare una serie di cose piuttosto nutrita, e cioè deve verificare i registri catastali, come abbiamo visto prima per le ragioni che abbiamo già affrontato con Doriana. Deve verificare i registri immobiliari, che non ci siano pignoramenti, che non ci siano ipoteche, deve verificare la documentazione relativa alla parte edilizia ed urbanistica dell'immobile e verificare se siano o meno necessari degli approfondimenti o delle correzioni, deve verificare il regime patrimoniale delle parti. Insomma, siete anche un po' ingegneri, geometri. Sì, diciamo che bisogna fare un po' di tutto, di alcune cose siamo specificamente competenti e di altre cose dobbiamo indicare purtroppo la strada per andare altrove. Allora, Massimiliano invece su Twitter ci scrive: ha richiesto preventivo a tre notai tramite PEC, quindi posta certificata, per aumento di capitale di una società. Mi ha risposto solo uno dopo 20 giorni. Ancora vedo che il nodo un po' critico segnalato da molti ascoltatori, che evidentemente quelli che ci scrivono sono quelli che hanno delle criticità da raccontarci, poi tutti quelli a cui le cose sono andate bene magari non lo segnalano, anche se vorrei anche qualche esperienza di questo tipo positiva, però proprio vedo che la questione del preventivo è ancora... Ma lo riscontrate anche voi fra i vostri associati? La questione del preventivo è vero, è una questione importante, ma l'invito che noi facciamo, che abbiamo fatto anche tramite questa guida, è di evitare dannose intermediazioni nelle richieste dei preventivi. Le richieste dei preventivi one to one sono evase sicuramente in tempi rapidissimi e sono evase con cognizione di causa, perché il notaio può effettivamente dare un consiglio di natura come preventivo, naturalmente, sul caso concreto, ma cioè, molto quindi spesso lei dice Massimiliano sarebbe dovuto andare forse meglio andare, di no, non serve, non, perché bisogna fisicamente recarsi dal notaio, però a volte le richieste vengono fatte in modo diciamo indiscriminato ad una serie diverse di notai e magari utilizzando dei servizi che si trovano su internet. Per carità, possono facilitare, ma tolgono proprio quella componente personale che consente al notaio di dare una risposta non astratta, che nella maggior parte dei casi poi non andrà bene. Per cui la richiesta diretta può costare un po' più di fatica, anche per mail, che sia una semplice mail che sia per PEC, ma mirata con il caso concreto al singolo notaio o anche una telefonata, sicuramente danno una reattività maggiore. Uno su tre comunque non è male, concordo che 20 giorni siano troppi. Allora, io intanto ribadisco, vorrei negli ultimi minuti che ci rimangono, pochissimi, anche sentire da voi se ci volete raccontare quella volta in cui un notaio professionista di questo tipo ha avuto un ruolo importante nella gestione di un passaggio delicato della vita della vostra famiglia, anche un'eredità, una successione, perché sono poi proprio quelli magari frangenti problematici in cui con le famiglie si discute, non ci vanno mai bene, magari invece il notaio vi ha aiutato a dipanare una matassa proprio dal punto di vista anche emotivo complicata, perché non ci dimentichiamo che molto spesso intervengono anche in questo attorno a questo aspetto. Sentirei intanto Francesco da Bari, che ci fa tornare a un tema iniziale. Francesco, benvenuto, velocissimo, grazie. Buongiorno, cercherò di essere proprio più brevissimo. Due domande differenti. Una, se è vero che si può andare direttamente al catasto, quindi registrare una compravendita con la presenza di acquirente e venditore e andando ad ufficializzare l'atto senza bisogno, perché il codice civile lo prevede. Questa è la prima domanda, se è possibile, se è reale fare questo e quindi non eliminare passare il notaio, insomma. Esattamente. Questa seconda è la prima veloce domanda. Francesco? La seconda veloce, se all'atto di un acquisto con una frammentazione di un mutuo, quindi un frazionamento del mutuo concordato con il costruttore, quindi il notaio ha l'obbligo di dare lettura di quelli che sono i parametri che io stesso avevo concordato con la banca. Morale della favola, quando io ho fatto, per essere ancora più chiaro, quando mi sono recato dal notaio, il notaio ha dato lettura dell'atto, ma del mutuo che io mi ero accollato non ha fatto menzione. Ho avuto la sgradita sorpresa mesi dopo di constatare che il tasso a me riferito non era quello che io avevo concordato con la banca. E mi sono ritrovato così inerme, senza poter dire nulla, perché il notaio non ha dato lettura di quelli che erano i parametri contenuti, certo, nel mutuo. Perché lei dice avrebbe potuto contestarli già quel giorno, magari, e interrompere la prosecuzione, diciamo, della iniziativa di compravendita. Allora, non riusciamo a sentire Nina da Torino, le chiedo di scriverci a cuoredenari@radio24.it, come stanno facendo già molti ascoltatori gentilmente. Perché per la guida ho capito il messaggio che mi ha mandato Marco, pensavo che fosse un'altra cosa. Detto questo, notaio Cambareri, allora velocissimamente, andare direttamente compratore e venditore al catasto e poi far certificare in un secondo momento da un notaio l'avvenuta compravendita che le due parti vogliono fare da sole? Allora, possiamo rispondere sicuramente in modo negativo alla prima raffinata domanda di Francesco. È vero che il codice civile prevede che la compravendita possa essere fatta per iscritto senza l'intervento di alcun professionista, è altrettanto vero che quella compravendita non riuscirò mai a registrarla nei registri immobiliari né nel catasto e conseguentemente correre il rischio che qualcun altro si appropri della mia casa per questa mancanza. Mancanza che può costare parecchio caro. Infatti, oltretutto. Allora, in questo caso un accollo di un mutuo, quindi un mutuo in costruzione, aveva fermato Francesco da Bari. Che cosa succede sul mutuo? Il notaio fino a che punto deve spingersi appunto per cristallizzare le condizioni con cui la banca l'ha erogato? Allora, qui cercherei di distinguere rapidamente il caso in cui la parte che va dal notaio stipula un vero contratto di mutuo, nel qual caso le condizioni sono molto più che lette e riflettute nel modo più ampio. Il caso particolare che ha descritto Francesco e come lo ha descritto lui vede evidentemente un forte coinvolgimento del costruttore che aveva stipulato un mutuo con una banca e Francesco stesso, il quale si sarà presumibilmente recato negli uffici del costruttore, negli uffici della banca per concordare, per così dire, le condizioni. Avrebbe dovuto ricevere sicuramente adeguate informazioni. Lì non ha stipulato un contratto di mutuo, se lo è semplicemente accollato. E non è obbligatorio indicare nel rogito di compravendita le condizioni, diciamo, economico-finanziarie del mutuo, perché questo fa parte. Questo non toglie che se dovesse avere particolare insoddisfazione del comportamento del notaio può sempre rivolgersi al locale consiglio. Fa ancora in tempo, anche se ormai la procedura è andata avanti, anche se ormai il mutuo lo ha sottoscritto e ha capito dopo che le condizioni non erano quelle che immaginava di aver pattuito. Abbiamo ampia possibilità di fare tutte le operazioni di portabilità di mutuo e di bravo di notaio, sarei andata proprio lì, infatti. Per Francesco. Allora, 800 24, niente su questo argomento qua, mi stavo lanciando. Però continuate a scriverci, a chiamarci, esattamente, anche a telefonare, perché... anche perché tra poco noi affronteremo il secondo tema di Cuore Denari. Infatti. Non hai prestato orecchio? Ho prestato orecchissimo. No, tra l'altro quello che volevo dire è che il pool dei notai del Consiglio Nazionale del Notariato è sempre a nostra veramente totale disposizione per rispondere in privato a tantissimi casi, lo hanno sempre fatto, continueranno a farlo. Grazie al notaio Cambareri, buona estate. Grazie a voi. Allora, la guida ce la lasci, però intanto, perché e magari noi la leggeremo anche sotto l'ombrellone, io e Debora andiamo al mare per, per leggerci la guida. A tra poco. Cuore e denari. Questa seconda parte di Cuore Denari, vogliamo vivere orecchio, anzi vivere con orecchio, meglio se sano, lontano da otiti e altri disturbi tipici dell'estate, perché basta davvero poco per mandare in crisi le nostre orecchie. Poi sono dolori, no? Basta un bagno in mare, in piscina, questo è il periodo giusto, un cambio di altitudine, una serata in discoteca, chissà, Debora magari con la musica a tutto volume, mi ci vedi lì già, ed ecco che arriva il conto: dolore, senso di ovattamento, fischi e quella spiacevole sensazione di sentirci un po' meno. Tutto questo però si può evitare o limitare sensibilmente, a patto che impariamo a prendercene cura. Con noi oggi è tornato a trovarci il dottor Sandro Burdo, medico audiologo, consulente audiologo degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Siamo molto felici di averla in linea con noi. Piacere di sentirla. No, mi veniva in mente una puntata che abbiamo fatto col dottor Burdo, non so se eravamo già insieme, in cui parlavamo insieme io e te. Dottor Burdo, lei se la ricorderà, una puntata che abbiamo dedicato alle cose che finiscono dentro le orecchie e quindi può essere... Si ricorda, ci eravamo divertiti molto. No, io non c'ero perché mi vengono già i brividi, perché ci sono anche, tu hai parlato venerdì di zanzara, a volte zanzara, ma a volte qualche cosa. Ma quando ti ronza mentre dormi lì le vorresti Quindi dottor Burdo, lanciamo anche questa convocazione ai nostri ascoltatori, ma con lei oggi porteremo le nostre orecchie in vacanza, non solo al mare, in montagna, nei viaggi in aereo, nelle immersioni. Però prima le chiedo, ci sono delle orecchie più a rischio di altre, perché magari i diretti interessati non lo sanno e quindi rischiano di più, orecchie un pochino più fragili di altre? Allora, orecchie o udito, due cose un po' diverse. Le orecchie provocano disturbi dell'orecchio, provocano dolori, sensazioni di orecchio chiuso e così via, e questo ne è predisposto chi ha ad esempio una pelle molto sottile, molto delicata, va al mare, fa il bagno in una zona non perfettamente pulita, ecco che arriva l'otite esterna perché la sua cute è predisposta a infettarsi. Questo potrebbe essere un esempio. Sì. Oppure problemi di udito. Una persona che è predisposta a diventare sorda per il rumore va in discoteca, si mette vicino a una cassa, sente la cassa a tutto volume, parte un fischio, vuol dire che sta diventando sordo, deve fuggire dalla discoteca. Queste sono le due principali cause di predisposizione ad ammalarsi. Una l'otite, l'altra la sordità dal rumore. E quindi infatti noi oggi parleremo di orecchio e di udito. Allora, soffrite di otiti frequenti in questo periodo, quando salite in aereo, al momento del decollo, dell'atterraggio, vi si tappano le orecchie, avvertite un senso di pienezza, anche di dolore, vi disturba un fastidioso eczema che si riattiva in occasione di bagni, di tuffi o anche quando fate la doccia, quando l'acqua entra dentro le orecchie? Il dottor Burdo è pronto a risolvere ogni situazione. 800 24 00 24, iniziamo subito con Anna da Napoli. Buongiorno Anna, benvenuta. Grazie, buongiorno. Dunque, il mio fastidio è questo: io come se avessi sul lato sinistro dell'orecchio un tappo sempre dolorante, però quello che più mi dà fastidio e mi fa soffrire è che mi porta una secchezza alle narici, ma da non poter respirare col naso, poi come se fosse un'infiammazione che mi arriva alla gola e mi brucia la gola. Insomma, Anna, e quindi dica. No, e tutto parte dall'orecchio. Sì, il dottor Burdo lo sa bene, per questo forse ha deciso di fare l'otorino, no? Perché in effetti è il suo campo d'azione è molto ampio, al di là di quello che uno possa pensare, no? Perché... Beh, in questo caso è vasto, non ampio, perché partiamo dalla gola, arriviamo all'orecchio. Io non sono d'accordissimo con la paziente, con la signora, quando dice parte dall'orecchio, perché mi ha detto che ha mal di gola, mm-hmm. e spesso il mal di gola, le tonsilliti, provocano un dolore riflesso all'orecchio, per cui sembra di avere un'otite. In realtà si ha mal di gola perché di lì passa un nervo che va a innervare sia la tonsilla che l'orecchio medio, e quindi quando questo viene infiammato si ha quello che si chiama un dolore riflesso, e quindi può essere benissimo che la signora abbia un problema di rinofaringite, può essere anche cronica, quindi bisognerebbe visitarla, certo, che si riflette con un mal d'orecchio. Dottor Burdo, un nostro ascoltatore Max da Treviso ha subito un quesito per lei. Mia moglie molti anni fa ha fatto la ricostruzione di un timpano perforato, può fare attività subacquea? Tra poco parleremo anche di immersioni, e quindi il messaggio di Max cade, come si dice, a fagiolo. Dottor Burdo. Ma sì, qui il problema è questo: se ha avuto un timpano perforato è perché ovviamente ha avuto delle otiti che hanno prodotto la perforazione. Gli otiti dell'orecchio medio vengono quasi sempre perché la tuba di Eustachio non funziona bene. Se non funziona bene la tuba di Eustachio, fare delle immersioni è un po' azzardato, perché scendendo in profondità si provocano delle alterazioni pressorie all'interno dell'orecchio, quindi ciò che ha fatto il chirurgo, l'immersione può distruggere, quindi può riapparire una perforazione se la tuba non è pervia, come è probabile. Andiamo ad Antonio, che ci chiama da Torino. Vogliamo dare voce a tutte le vostre telefonate, 800 24 00 24. Andiamo a sentire che cosa ci racconta Antonio, ci piace già. E soprattutto che cosa risponderà il dottor Burdo. Antonio, buongiorno. Buongiorno signore. Io volevo chiedere una cosa: siccome faccio l'autista, dalla mattina prestissimo alla sera quando finisco sono sempre su Radio 24, è diventato appunto più bello, vero Antonio, nel frattempo? Sì, certo, questo senza dubbio. Volevo chiedere, secondo lei, lungo andare, perché è tanti anni che faccio sto mestiere, ho paura che magari potrebbe succedermi qualcosa ai timpani. Ecco, anche perché siamo ad alto rischio di dipendenza, questo Antonio che è vero. Ecco. Però sentiamo il dottor Burdo. Dottor Burdo, sente Radio 24? Io sento sempre Radio 24, non ne stacco mai. Qualche volta in realtà, perché è sempre piacevole ascoltarvi. L'autista ha ragione nel momento in cui si preoccupa del suo udito, non tanto del timpano quanto del suo udito, perché un'esposizione prolungata a rumori, come può essere quella di un autista, soprattutto se la cabina dove lui lavora non è ben insonorizzata, e oggi la maggior parte delle riviste di automobilismo riportano anche i livelli di rumorosità all'interno degli autoveicoli, quindi questo ad esempio sarebbe molto interessante che tutti andassero a verificare, perché rumorosità superiore agli 85 decibel per 8 ore al giorno provocano sicuramente una perdita di udito, quindi conoscere i livelli di rumorosità non è una brutta idea. Attenzione, questo si può fare con delle app scaricabili con i moderni smartphone, quasi tutti, si possono scaricare dei fonometri che misurano quindi l'intensità del volume, del rumore a cui siamo sottoposti, e se siamo sottoposti a volumi superiori a 85 decibel è meglio cambiare automobile. non radio. E infatti vi invitiamo, vi invitiamo adesso, poi nel, dopo il GR parleremo naturalmente di otiti, ci sono dei genitori che ci stanno scrivendo, sì, bambini a rischio, si possono prevenire, che cosa si deve fare. 800 24 00 24, dottor Burda, grande richiesta, torna il grande temone del cono per l'igiene dell'orecchio, sì, questo dopo, e il dottor Burda già ride. Dopo il GR parleremo naturalmente anche di questo. Se nel frattempo qualche zanzarina che non siete riusciti a scacciare coi consigli di Deborah venerdì è entrata e ronzata e si è infilata nel vostro orecchio, chiamateci adesso. GR, subito dopo torniamo insieme. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Cuore e denari. Con noi oggi parliamo di orecchie, abbiamo sentito i nemici delle nostre orecchie, nemici estivi, tuffi in mare o in piscina, che sia viaggi in aereo, musica ad alto volume in discoteca, ma Deborah mi diceva anche in palestra. Questa è una canzone che noi tipicamente usiamo per lo step, anzi saluto il mio istruttore Matteo. Guarda, bravo, già questo che ci Matteo sono, è un uomo d'oro e devo dire che picchia con la musica quando facciamo delle coreografie un po' divertenti. Dottor Burdo, quali altri possono essere nemici delle nostre orecchie in estate? D'estate praticamente gli sbalzi di pressione, assolutamente, che possiamo subire quando ad esempio voliamo, oppure quando saliamo in quota, oppure quando facciamo delle immersioni subacquee troppo rapide. Questi sbalzi di pressione possono provocare dei dolori lancinanti e anche delle otiti, fino alle otiti emorragiche, cioè può uscire del sangue dall'orecchio, che è una situazione molto grave, soprattutto per i subacquei. Mamma mia. Per prevenire, dottor Burdo, quali sono i consigli? Allora, un po' di buon senso, l'abbiamo tante volte ripetuto. Il buon senso ci vuole sempre. Ecco. L'abbiamo sentito anche prima, la paziente che si è fatta operare per un'otite cronica e ha fatto una ricostruzione del timpano, ha la tuba che non funziona. Quindi chi soffre spesso di senso di orecchio chiuso, soprattutto d'inverno, d'estate, forse è meglio che non faccia l'immersione subacquee. Così come chi soffre dello stesso disturbo quando sale in aereo dovrebbe attuare delle strategie prima del decollo e prima dell'atterraggio in modo da aprire le tube. Le strategie sono masticare, perché le tube si aprono quando noi deglutiamo, quindi più deglutiamo e più la tuba si apre. Quindi masticare, la gomma americana, magari un quarto d'ora prima di partire farsi, quando si è ancora a casa si fa un'inalazione caldo-umida, così si libera un po' il naso. Queste sono le accortezze da prendere per chi soffre di questi problemi. Attenzione, questi sono dolori prodotti da tuba chiusa, da non confondere invece con lo stesso dolore, attenzione, ma prodotto da un'altra cosa. Se noi facciamo il bagno in un'acqua inquinata, non è più un problema di orecchio medio, quindi di tuba che si chiude, ma di infezione della cute. Questo è importante perché le terapie sono diverse. Vogliamo abbiamo ricordarle, prima, sì. Sì, abbiamo detto prima, per chi soffre di tuba dobbiamo interessarci quindi del naso praticamente, perché la tuba è il canale che mette in collegamento l'orecchio con il naso. È il canale di sfogo, come il canale delle nostre case, che sfoga, mi spiego, dal tetto. Sì. Se si chiude quello, il tetto si intasa, così noi ci intasiamo l'orecchio medio, che equivale al tetto. Dobbiamo liberarlo, abbiamo detto come, deglutendo continuamente, magari usando anche delle inalazioni caldo-umide che lo liberano. Quando invece noi abbiamo un problema di orecchio esterno, Orecchio esterno significa il condotto uditivo dove infiliamo il mignolo per pulirsi le orecchie. Speriamo di no. Sì, insomma. Va bene. Però ai semafori si vede quello e altro. Chiudo la parentesi. Dottor Burdo, di quello e di altro. Ecco. Allora, va bene. Poi guardi che lei cerca di sfuggire al cono di cera, ma la becco. Vada, dottor Burdo, quindi. Allora, se abbiamo un dolore violento quando facciamo il bagno in queste acque, che possono sembrare anche pulite, però in realtà non è la trasparenza che dà la pulizia, attenzione, perché può essere trasparente con uno scarico vicino, pieno di Escherichia coli, quindi possiamo. Allora, in quel caso il problema è solo cutaneo. Sì. Come distinguere le due otiti, quella dell'orecchio medio e quella dell'orecchio esterno? È banale abbastanza, basta spingere sul trago, cioè su quella sporgenza che abbiamo davanti all'orecchio, che funge un po' da riparo per non far entrare questa specie di aletta che abbiamo. Ecco, ma me la sta mostrando, dottor Burdo, Nicoletta. Si è tolta una cuffia. Ecco, questa specie è fatta di cartilagine, si muove un po', vero, sì, dottor Burdo? Esatto. Ecco. Si chiama trago ed è quello che noi spingiamo verso il condotto quando abbiamo le orecchie tappate. Sì. Allora, questo movimento, se provoca dolore, vuol dire che abbiamo un'otite esterna, quindi d'acqua non pulita per intenderci. Se invece in presenza di dolore spingiamo sul trago e non aumentiamo il senso di dolore, vuol dire che abbiamo un'otite media. Terapie diverse, perché nell'otite esterna bisogna prima di tutto farsi vedere da un medico che deve pulire ciò che c'è dentro all'interno. Ho visto, ha fatto proprio un sospiro, ha detto pulire. Tocca anche fare questo, dottor Burdo. No, ma è perché molti danno gli antibiotici senza pulire, che è l'equivalente che mettere la cera sotto. Ecco, la cera con il pavimento pieno di schifezze, polvere. Appunto. Per cui va pulito e poi dopo aver pulito si disinfetta. Questa è la regola. Bisogna anche farlo 2-3 volte in una settimana, da un medico magari dotato di microscopio, per cui riesce a farlo con una certa attenzione senza provocare dolore. E questo va fatto per le otiti esterne, dove non è quasi inutile usare degli antibiotici. Bravo, perché diciamolo, perché ne usiamo, anche se negli ultimi anni un pochino meno, ma ne usiamo comunque troppi, vero dottor Burdo? Perché prima che arrivi l'antibiotico sulla cute ne passa, ma poi se lasciamo lì ciò che provoca l'infezione, lei capisce che è inutile l'antibiotico. Sì, devo dire che lo capisco anch'io, dottor Burdo, quindi insomma siamo ben messi. Mentre per l'orecchio con l'otite media, dottor Burdo, quindi con l'otite media, allora in questo caso ci vuole l'antibiotico, però in ogni caso bisogna liberare il naso, perché bisogna liberare la tuba, bisogna fare in modo che la tuba svolga la sua funzione, cioè quella di drenare il catarro dentro le orecchie. Certo. Questo è l'obiettivo. Quindi, dottor Burdo, io le farei un grande applauso, tanto ce l'abbiamo anche in regia, perché lei con un semplice movimento ci ha insegnato a fare questo distinguo che è molto importante, e quindi tra l'otite esterna e l'otite media. E quindi devo dire, dottor Burdo, con una semplicità, basta, insomma, hai male all'orecchio, tappati le orecchie, no, e cerca di capire come si modifica il dolore, se si modifica, per arrivare ad una sorta di autodiagnosi. Ho detto bene, dottor Burdo? Parliamo però delle otiti trascurate, dottor Burdo, perché ci sono tante persone che si trascinano da un'otite all'altra. Andiamo a Claudio, che ci chiama da Mantova e che ci racconta l'esperienza della figlia, una bambina piccola, che avrei piacere di sentire. Claudio, buongiorno. Buongiorno, allora io chiamo appunto perché ho sentito l'argomento e mi interessa tanto, in quanto 2 anni fa mio figlio ha avuto l'otite per 3 volte. Sì. Noi frequentiamo una piscina, una società dove ci sono 3 piscine, effettivamente l'anno scorso, cioè 2 anni fa, perché l'anno scorso da fare il bagno è stato un po' impossibile visto il tempo, 2 anni fa abbiamo fatto il bagno soltanto principalmente in una, chiamiamolo così, ludica. E quindi è probabile che abbia avuto un'otite esterna, perché proprio magari ha ripetuto l'otite proprio perché non erano state svolte quelle operazioni di pulizia a cui il dottor Burdo si riferiva. Dottor Burdo. Sì, è probabile. Adesso io non voglio parlare di piscine perché è una trasmissione televisiva ricordai che nelle piscine i bambini fanno la pipì, parliamoci chiaro. Sì, vabbè, quindi se non, se non c'è una pulizia, ed è stato contestato. Continua. E cosa e sono stato contestato, direi abbastanza aspramente, per questa mia affermazione. La cosa importante è che la sa che è pipì d'angelo, no? Si dice che la pipì dei bambini è pipì d'angelo. Sì, è pipì comunque. Ecco, anche se d'angelo è pipì comunque. Comunque, dottor Burdo, quindi una raccomandazione, ecco, per chi attenzione, torna. Però ci sono dei bambini che sono un po' più predisposti degli altri, sì, a fare questo, a avere delle otiti esterne. Allora bisogna asciugare bene le orecchie, e le orecchie si asciugano ponendo, piegando, scusate, la testa sul lato che si vuole asciugare, sì, si infila dentro il dito con l'asciugamano e lo si tintilla violentemente, violentemente ovviamente senza far male, sì, perché in questo modo si liberano le bolle d'aria che si sono create nel condotto uditivo esterno e che non permettono la fuoriuscita di acqua. Ed ecco la sensazione piacevole quando si libera l'orecchio dall'acqua che noi adulti proviamo facendo questo tipo di manovra. Quindi si fa anche ai bambini questa manovra? Si deve fare anche ai bambini. Dopo aver fatto questo, una passata di phon, non dentro l'orecchio per la carità, ma in modo quando si asciuga la testina, sì, si asciuga a debita distanza, cioè non... Brava, perché l'obiettivo è non mantenerle umide, cioè non fare in modo che l'acqua ristagni nell'orecchio. Dottor Burdo, naturalmente tutte queste operazioni le facciamo a giornata finita, perché questi entrano, escono, sì, entrano, sì, escono, se no diventa un tormento e asciuga le orecchie e passa il fondo. Ho fatto un bagno solo di 4 ore tipicamente. Quindi alla fine della giornata si fa questa operazione, sì, doppia operazione. Sì. Mignolo, asciugamano e si tintinna dentro l'orecchio in modo che il bambino sente proprio l'acqua uscire. Che poi si vede la goccia che esce, perché se l'asciugamano è asciutto, si vede proprio la goccia che bagna l'asciugamano. Ovvero non bisogna lasciare le orecchie umide, questo è il principio. Ecco, quindi non serve una miscela di alcol etilico più acido, acetico, glaciale, come ci scrive un ascoltatore. Esatto, anch'io lo stavo... Ci sono, allora, questa è una tecnica americana, difatti io quando... studiavo sul libro di farmacologia, perché dico tap water, questa cosa qui, cioè acqua e aceto, in effetti è un buon disinfettante. Noi siamo un po' più sofisticati, di solito usiamo le gocce, quelle che vendono in farmacia, come disinfettante, però anche l'acido acetico secondo me è un po' irritante, se devo essere sincero. Ma quindi acqua e... fa lei un mix di acqua e aceto, aceto in parte uguale. E vabbè, abbiamo proveremo anche. Serve anche per le zanzare, se hai sentito la trasmissione di venerdì. Sergio da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, Sergio. Vada. Se partiamo già con questo rumore. Buongiorno, complimenti. Ah, il rumore sono le cicale. Le cicale, vedi? Grosse come cicalone. Ne ho un'invasione qui, se ne volete un po'. Ce le mandi. Allora, di notte cantano, vabbè. Le tengo la compagnia. Complimenti per la trasmissione intanto. La mia domanda è questa: io soffro di utiti già da piccolo, però ultimamente io faccio immersioni, quando faccio 2-3 immersioni di seguito poi mi vengono fuori delle utiti sempre esterne. Sempre volevo esterne. Sapere se durante l'inverno c'era una cura, una prevenzione da fare in maniera tale da rinforzare o da vedi, rendere perché meno... vuole fare un po' la formica come la di prevenzione, certo, non come un cicalone. Sergio ci racconta delle sue otiti da immersioni, dottor Burdo, ma d'inverno può fare qualche cosa? Allora, se sono otiti da immersione e sono quindi dell'orecchio medio, lui dovrebbe fare della ginnastica tubarica, così si chiama. Cioè, addirittura, mi racconta anche la ginnastica tubarica. Ci sono delle non in tutti i centri di audiologia c'è una persona preparata per far questo, ma sono degli esercizi che poi alla fine migliorano la deglutizione e fanno aprire la tuba, fino ad arrivare ai famosi palloncini con i quali si provoca una spinta negativa nella cassa timpanica, soffiando su un palloncino che si deve gonfiare con una narice. In questo modo si stappano le orecchie. questo è l'estremo della ginnastica tubarica. È una specie di culturismo vedere. Questo, dottor Burdo. Il no, culturismo della... Sta benissimo. Ci sono questi che poi impazziscono per questa cosa e si gonfiano palloncini continuamente, sbagliando ovviamente, perché la tuba deve restare chiusa, non deve restare aperta, tant'è che la tuba aperta è una patologia, si chiama tuba beante. E la tuba beante ha come sintomo il fatto che noi sentiamo tutti i nostri atti che succedono in gola, compreso il respiro, per cui sentiamo continuamente le folate di respiro che entrano. Però è fastidiosissimo, Molto, molto. Dottor Burdo, quindi abbiamo imparato che c'è anche una ginnastica preventiva, quindi che per le persone che, come il nostro ascoltatore, hanno questi problemi, fanno immersione d'estate, hanno otiti ricorrenti, possono fare una sorta di allenamento e una ginnastica consigliata anche a quale altre orecchie, dottor Burdo? Ma si faceva anche ai bambini, più che altro, sai, i bambini bisogna, le mamme hanno perso la buona abitudine di insegnare a soffiarsi il naso. Cosa che potrebbero insegnare anche i papà, dottor Burdo? Sì, però i papà lo fanno sempre peggio. Allora siamo di nuovo amici. Insegnare a liberare il naso dal muco serve proprio a questo, attenzione anche qui. Non usiamo continuamente l'acqua salata, l'acqua di mare nel naso, bisogna usare i fazzoletti. L'acqua dell'oceano. Sì. Sì, queste cose un po' strane. Prima si pulisce e poi si lava. Quindi prima una narice, poi l'altra, si soffia il naso, giusto, sì, dottor Burdo? Esatto, bisogna insegnare i bambini. E i bambini, quando si insegna loro a fare qualcosa, sono di un contento perché sono soddisfatti delle loro prestazioni, insomma dà anche soddisfazione del bambino soddisfatto che si è soffiato il naso. Dottor Burdo, coni, coton fioc, come ci scrivono gli ascoltatori, dito con il sapone, qual è il modo migliore per pulire le orecchie, per un'igiene che sia al tempo stesso efficace ma rispettosa del nostro orecchio? Beh, qualche rito voodoo anche, oltre a quelli che lei mi ha elencato, gli spilloni. Sì, mi dica lei, o anche lo spray, viene suggerito. E lei lo specialista, io faccio le domande. Ci sono gli spray. Allora, le orecchie non sono sporche, ovvero ciò che noi vediamo, che consideriamo sporcizia, cioè il cerume, non è in realtà sporcizia. È chiaro che dà fastidio alla vista e va tolto, ma il cerume svolge delle funzioni. Prima di tutto serve a mantenere la cute abbastanza, come si può dire, succulenta, diciamo così, e ci intendiamo, perché quando manca il cerume la cute si assottiglia ed ecco, tornando a bomba a chi ha le otiti esterne frequenti da piscina, sono persone che magari producono pochissimo cerume, la cute è molto sottile è proprio una carta velina, per cui facilmente si ammala. Quindi hai l'otite, vuol dire che hai poco cerume, non si può anche essere, non è che uno se lo debba, lo possa far venire, perché il cerume è l'equivalente del sudore, è il sudore delle orecchie, per cui c'è chi suda di più, c'è chi suda di meno. E quindi chi suda di più formerà tanti tappi, chi suda di meno non li formerà. La cosa da ricordare è che il cerume viene prodotto dalla parte più interna del condotto uditivo esterno e poi delle ciglia lo sbattono fuori di giorno in giorno. Per cui quello che noi troviamo nel dito la mattina quando ci laviamo oggi è in realtà il cerume che era stato prodotto 3 giorni fa alla fine del condotto. Quasi dannata, insomma. Brava, è bello stagionato. Il colore lo dice. Che cosa succede? Se noi usiamo il cotton fioc in un modo maldestro, cioè sempre, noi ributtiamo all'interno ciò che la natura ha sbattuto fuori, per quello che si creano i tappi di cerume, che è molto più frequente oggi il tappo di cerume per eccessiva pulizia, chiamiamola così, da cotton fioc, che non per fatti naturali. Poi lo ripeto, c'è chi produce più cerume, questo poverino 2 o 3 volte all'anno deve andare dallo specialista a farselo togliere. Certo. Usare i coni, queste cose, ripeto, un po' primitive, anzi molto primitive, oltre a essere spesso inefficaci, possono anche ustionare l'orecchio, insomma una serie di cose che non sono piacevoli. Le orecchie sono sacre, sono come si può dire, sono degli organi da rispettare, come tutto il corpo umano, e quindi bisogna farsi togliere i tappi da chi è capace di toglierli, magari persona dotata di microscopio, di aspiratore, non solo di siringone, perché usi una certa cautela nel togliere il serume dalle orecchie. Prima di andare a toglierselo è sempre conveniente ammorbidirlo o con delle gocce o con dei prodotti. Io sconsiglio il prodotto eccessivamente, come si può dire, potente, perché può provocare delle irritazioni. Si possono mettere delle gocce che si usano per le otiti, per intenderci. Sì. Alcuni consigliavano anche l'olio caldo. È un attimo che ti friggi il timpano, dottor Burdo. Ecco, direi tutto quello che per sempre. Allora, noi avremo noi avremo proprio 30 secondi per Massimo da Parma. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Problema demenziale, però i peli che crescono nelle orecchie, a me crescono a livello esponenziale. Ci fa le trecce, Massimo. Cascono in testa e crescono nelle orecchie, comunque vabbè. Faremo una puntatona tutta sui peli, Massimo. Madre mia, cosa bisogna fare? Bisogna tagliarli, bisogna toglierli, perché qui io Massimo fa una bella conciatura che deve fare Massimo. Dottor Burdo, io li taglierei. Ah no, ferma lì, guardi, no. Avere il paziente 3 secondi col pelo in orecchio, un tappo di serume è la cosa peggiore che ti può capitare. Più li tagli e più ricrescono, come tutti i peli del corpo. Quindi la tricotomia, cioè il taglio del pelo all'interno dell'orecchio, va fatto solo quando necessaria e per liberare l'orecchio. Farla per motivi estetici non ha senso, perché altrimenti poi diventa un disastro. Ma lui gli crescono, della poverino. Luce che entrano. Ho capito. Ma se lei li taglia, crescono ancora di più. Va bene, non so se Massimo sarà soddisfatto di questa risposta. O la fidanzata di Massimo, anch'io penserei alla fidanzata. Massimo, non lo so. Allora, dottor Burdo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. A presto. E noi torniamo domani, cara mia, ancora questa coppia per tutta la settimana saldissima al microfono. Together. A domani.